Ciao Stella, voglio raccontarti quanto sto male e quanto posso amarti. Senza di te la vita è una follia, senza di te la vita non è più mia. Tu non ci sei, ma è come se ci fossi. Quante volte pensando ho avuto occhi rossi. La vita a volte ci toglie sempre tutto. Senza di te mi sento troppo in lutto. Esco dalla stanza e tu non ci sei. Mi accorgo solo dopo che non c'è lei. Una brutta malattia ti ha portata via. Non te ne andrai mai dalla vita mia. Senza di te io vivo male ogni giorno. Sai quante volte poi ho sognato il tuo ritorno. Quante volte poi ho detto che ci incontreremo. Nella mia testa la tua voce fa un dolce eco. Senza te io sono solo, senza te ma sei in volo. Senza te io sono stanco, senza te non sei il mio fianco. Senza te io sono solo, senza te ma sei in volo. Senza te io sono stanco, senza te non sei il mio fianco. A volte sogno di abbracciarti e poi mi sveglio male. Quante volte ti ho vista nel riflesso del mare. Quante volte ti ho vista nel viso della luna. Ho bisogno di te, di mamma ce n'è una. Sti giorni senza te che non vanno più avanti. Ci penso e lo capisco che siamo distanti. Che mi salvi un amore, che mi salvi una storia. La tua bellezza impressa nella mia memoria. E mamma lo sai che non sono un santo. Quando guardo foto poi scoppio in un pianto. Quando stringo il petto quel cuscino, per rivederti io ritornerei bambino. Tu perdonami se poi ho fatto cazzate. Cancella ogni cosa, fai come le fate. Senza di te il mio cielo piange. Senza di te sono vuote queste stanze. Senza te io sono solo, senza te ma sei in volo. Senza te io sono stanco, senza te non sei il mio fianco. Senza te io sono solo, senza te ma sei in volo. Senza te io sono stanco, senza te non sei il mio fianco. Senza di te, io che mi sono fatto da solo. Io sorrido e sto bene, tu sei là in volo. Poi tu scusami se io faccio quel che faccio. Ma se ritorni giuro che non lo rifaccio. Se solo si potesse io ti chiamerei. E da questo posto forse me ne andrei. Perché sono stanco della solita gente. Tu sei quel pensiero fisso nella mente. E chi l'ha detto che tu non tornerai più? A volte ti sogno, questo lo sai pure tu. Che per me tu sei la cosa più importante. Ti rivoglio, tu sei l'unica trattante. Basta adesso che poi sto cuore urla. Come tempo fa, lì dentro la mia culla. Quando eri con me, per farmi addormentare. Ogni umano è nato per sognare. Senza te io sono solo, senza te ma sei in volo. Senza te io sono stanco, senza te non sei il mio fianco. Senza te io sono solo, senza te ma sei in volo. Senza te io sono stanco, senza te non sei il mio fianco.